Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Robert Jordan guardò Maria. Le spalle della ragazza ricominciarono a tremare ed essa girò gli occhi. Fernando mangiava comodamente, con un'espressione dignitosa e fiera sulla faccia. Nemmeno il cucchiaio gigantesco, nemmeno la salsa che gli gocciolava dagli angoli della bocca potevano intaccare la sua dignità. «Ti piace questa pietanza?» gli domandò la donna di Pablo. «Sì, Pilar», dissegli con la bocca piena. «È la solita, come sempre». Robert Jordan sentì la mano di Maria sul braccio e sentì le dita di lei serrarsi con voluttà. «È perciò che ti piace», disse la donna di Pablo a Fernando. «Sì», continuò. «Capisco, è stufato, come sempre. Nel nord le cose vanno male, come sempre. Qui c'è un'offensiva, come sempre. Arrivano truppe per scacciarci, come sempre. Ecco, e tu potresti servire da monumento al come sempre». «Ma le due ultime storie sono solo voci, Pilar». «Spagna», disse con voce amara la donna di Pablo, poi volgendosi a Robert Jordan. «C'è della gente simile anche in altri paesi?» «Non c'è nessun paese come la Spagna», disse con cortesia Robert Jordan. «Hai ragione», disse Fernando. «Non c'è in tutto il mondo un altro paese come la Spagna». «Hai mai visto altri paesi?» chiese la donna. «No», disse Fernando. «E non ci tengo nemmeno». «Vedi?» disse la donna di Pablo a Robert Jordan. «Fernandino», disse Maria, «raccontaci di quando andasti a Valencia». «Valencia non mi è piaciuta». «Perché?» chiese Maria e di nuovo strinse il braccio di Robert Jordan. «Perché non ti è piaciuta?» «La gente di laggiù non ha buone maniere ed io non li capivo, non facevano che gridarsi che...» «E ti capivano?» chiese Maria. «Fingevano di non capirmi». «E che cosa hai fatto a Valencia?» «Ah, me ne sono ripartito senza nemmeno vedere il mare», disse Fernando. «La gente non mi piaceva». «Ah, levati dai piedi, vecchia zitella», disse la donna di Pablo. «Levati dai piedi prima di farmi venire il vomito. In vita mia non mi sono mai divertita tanto invece come a Valencia. Vamos, Valencia! Ah, non mi parlare di Valencia!» «Che facevi laggiù?» chiese Maria. La donna di Pablo si sedette al tavolo con una tazza di caffè, un pezzo di pane e una scodella di stufato. «Che? Che facevo laggiù?» «Ci andai quando ho finito, ebbe una scrittura per 3 corride alla feria». «Oh, non ho mai visto tanta gente, non ho mai visto caffè così affollati. Per ore e ore non si riusciva a trovare un posto ed era assolutamente impossibile salire sul tram. A Valencia c'era movimento giorno e notte». «Ma tu, che cosa facevi?» domandò Maria. «Tante cose», disse la donna. «Andavamo sulla spiaggia e ci buttavano in acqua mentre i buoi trascinavano le barche a vela a riva. I buoi erano spinti in acqua finché non perdevano piede e si mettevano a nuotare e poi li legavano le barche e quando ritrovavano piede risalivano arrancando fino alla spiaggia. 10 coppie di buoi che tirano a terra la mattina una barca a vela là dove le onde si rompono sulla spiaggia. Questa è Valencia». «Anche noi abbiamo fatto delle cose insieme», disse Pablo. «Sì», disse la donna, «perché no? E tu eri più uomo di finito ai tuoi tempi. Non siamo mai stati a letto insieme a Valencia mentre una banda passava per la strada». «Non è stato possibile», disse Pablo. «Non abbiamo mai avuto l'occasione di andare a Valencia e tu lo sai benissimo se vuoi ragionare, ma con finito non ha mai fatto saltare un treno». «No», disse la donna, «questo è rimasto per noi due. Il treno, sì, il treno, sempre il treno, non c'è niente da ridire. Di tutta la pigrizia, il sudiciume e il fallimento, questo ci rimane della vigliaccheria di questo momento. Ci sono state altre cose prima, non voglio essere ingiusta, ma contro Valencia non c'è niente da dire, capito?» «A me non è piaciuta», disse pacifico Fernando. «A me non mi è piaciuta Valencia». «E poi dicono», disse la donna, «che il mulo è testardo. Su, Maria, sparecchia, che ce ne andiamo». Mentre la donna parlava, udirono il primo ronzio degli apparecchi che tornavano. Raccolti all'ingresso della caverna, guardavano in alto. Le formazioni dei bombardieri volavano adesso molto alte, odiose, rapide frecce aguzze, spaccando il cielo col fracasso dei loro motori. «Sembrano davvero squali», pensò Robert Jordan, «gli squali con le pinne larghe e il muso puntuto della corrente del golfo. Ma questi qui, larghi d'ali argentati, rombanti e con la nebbia leggera delle loro eliche nel sole, non si muovono come squali, si muovono come nessuna cosa al mondo mai. Si muovono, ecco, come un destino meccanizzato». In quell'istante tre Heinkel da combattimento in formazione a V passarono molto bassi sopra la radura, sfiorando quasi le cime degli alberi come odiosi giocattoli scoppiettanti svolazzanti dai nasi piatti. Si ingrandirono un tratto paurosamente fino alla loro misura reale e scivolarono via con un rombo lamentoso. Volavano così bassi che dall'ingresso della caverna tutti distinsero i piloti con il casco e gli occhiali e il comandante della squadriglia con una sciarpa intorno al collo che gli si agitava dietro. Non passarono altri aeroplani. I caccia avevano probabilmente varcato i monti in un altro punto. Quando il rombo si fu spento, tutti uscirono nuovamente all'aperto. Adesso il cielo era vuoto, alto, azzurro e chiaro. «Pare di svegliarsi da un sogno», disse Maria a Robert Jordan. «Non si udiva più nemmeno quell'ultimo ronzio infinitamente lieve che ti sfiora come un dito e si spegne e poi ritorna a sfiorarti quando il suono è ormai quasi inaudibile». «Non è un sogno, e ora tu va dentro e sparecchia», disse Pilar a Maria. Poi, volgendosi a Robert Jordan, «Che dici, si va a cavallo o a piedi?» Pablo la guardò brontolando. «Come vuoi», disse Robert Jordan. «Allora andiamo a piedi», disse Pilar. «Fa bene al fegato». «Hai dormito bene?» domandò Pilar. Poi, «è vero che la ragazza non è malata, sai? C'è mancato poco, non so proprio perché non si sia ammalata. C'è probabilmente ancora un dio, sebbene noi l'abbiamo abolito». «Va», disse a Pablo. «Questo non ti riguarda, è per la gente più giovane di te, fatta di un'altra stoffa. Vai». Poi a Robert Jordan. «Agustin sta sorvegliando la tua roba. Ce ne andremo appena tornerà». «Avete fatto l'amore?» domandò la donna. «Lei che cosa ti ha detto?» «Non vuol dirmelo». «Nemmeno io». «Allora avete fatto l'amore», disse la donna. «Sta molto attento con lei, ti raccomando. E se avesse un bambino?» «Non è un gran danno», disse la donna. «Non è poi un gran danno. Questo non è un luogo adatto. Lei non vuole rimanerci, vuol venire con te. Dove andrò io non posso portare una donna. Chissà, puoi forse portarne due. Non parlare così. Senti», disse la donna, «io non sono vigliacca, ma la mattina presto vedo tutto molto chiaro. Molti di quelli che conosciamo e che sono ancora vivi ora non vedranno un'altra domenica, ne sono certa. Che giorno è oggi?» «Domenica». «Che va», disse Robert Jordan. «C'è ancora molto tempo fino a domenica prossima. Se arriviamo giovedì siamo a posto, ma non mi piace che tu parli così». «Ognuno deve poter parlare con qualcuno», disse la donna. «Prima avevamo la religione e altre sciocchezze. Ora ognuno deve aver qualcuno con cui poter parlare apertamente, perché se anche ha coraggio da vendere, uno dopo un po' si sente molto solo». Noi non siamo soli, siamo tutti insieme. La vista di quegli aerei fa un certo effetto, disse la donna. Noi non siamo niente contro quelle macchine. Tacque un istante, poi... Io mi faccio grandi illusioni sulla Repubblica. Credo fermamente alla Repubblica, ho fede. Ci credo con lo stesso fervore con cui la gente religiosa crede ai misteri. Ti credo. E tu? Hai la stessa fede nella Repubblica? Sì. Sì, disse Robert Jordan, augurandosi in cuor suo che potesse essere vero. Sono contenta, disse la donna. E non hai paura? Non di morire, egli disse con sincerità. Ma hai altre paure? Solo di non fare il mio dovere come dovrei. Sei un giovanotto molto freddo. No, disse egli, non lo credo. No, hai una testa molto fredda, perché il mio lavoro mi occupa molto. Ma non ami le cose della vita. Sì, molto, ma non permetto che disturbino il mio lavoro. Ma Maria, vuoi bene? Sì, ho sentito a un tratto di volerle bene, e molto. Anch'io le voglio molto bene, sì, molto. Anch'io, ripeté Robert Jordan, e sentiva che la gola gli si chiudeva. Anch'io, sì. Gli dava piacere dirlo, e lo disse molto solennemente. La quiero mucho. Robert Jordan posò la mano sulla larga spalla di Pilar. Voglio bene anche a te, ti voglio molto bene. Sei un vero Don Juan Tenorio, disse, confondendosi per la tenerezza la donna. Cominci ad amarle tutte. Ecco Agustin. Robert Jordan entrò nella caverna e si avvicinò a Maria. Lei lo vide arrivare e gli occhi le brillarono e di nuovo il rossore le coprì le guance e il collo. Ciao, coniglietto mio, disse egli, baciandola sulla bocca. Lei lo abbracciò forte e disse, «Ciao, oh, ciao, ciao!» «Pilar!» disse seriamente Agustin. «Ascoltami, qui si prepara qualche cosa, non è vero? Tu che ne dici? Non potrebbe esservi sciocchezza peggiore. Gli aeroplani erano tanti, mujer, tanti. E tu hai avuto paura come tutti gli altri?» «Ma che va!» Agustin disse. Che cosa credi che preparino? Senti, disse Pilar, la Repubblica sta evidentemente preparando un'offensiva. Per questo hanno mandato qui quel ragazzo a far saltare i ponti. I fascisti preparano una controffensiva, così si spiegano gli aeroplani. Ma perché ci mostrano i loro aeroplani? E in questa guerra, disse Agustin, accadono veramente molte fesserie. In questa guerra regna un'idiozia sconfinata. Claro, disse Pilar, noi altri non saremmo qui altrimenti. Già, disse Agustin, ora nuotiamo già da un anno in quest'idiozia. Ma Pablo è un uomo di molto giudizio, Pablo è molto furbo. Perché dici questo? Lo dico. Ma una cosa devi capire, disse la donna, ora è troppo tardi per salvarsi con la furberia e tutto il resto lui l'ha già perduto. Capisco, Agustin disse. So che dobbiamo andarcene e poiché per rimaner vivi bisogna vincere, bisogna far saltare i ponti. Ma Pablo, anche se ora è un vigliacco, è molto furbo. Sono furbo anch'io. No, Pilar, disse Agustin, tu non sei furba. Tu sei leale, sei coraggiosa, hai la vista acuta, hai molta decisione e molto cuore, ma non sei furba. Credi? Disse pensierosa la donna. Sì, Pilar. Ma il giovanotto, disse Pilar, è furbo, furbo e freddo, ha una testa molto fredda. Sì, disse Agustin, il suo mestiere deve conoscerlo, altrimenti non gli avrebbero dato questo incarico, ma io non so se è furbo. Di Pablo lo so che è furbo. Ma non conclude niente perché ha paura e l'azione gli ripugna. Non importa, è furbo. E tu che cosa pensi? Niente, mi sforzo di esaminare intelligentemente la faccenda. In questo momento dobbiamo agire con intelligenza. Dopo la storia del ponte bisognerà andarcene subito. Tutto deve essere preparato. Dobbiamo sapere dove si va e come. Si capisce. Perciò abbiamo bisogno di Pablo, della sua furberia. Io non ho nessuna fiducia in Pablo. Per queste cose sì. No, tu non sai fino a che punto è finito. Però è smui vivo. È molto furbo. E se adesso noi non ci comportiamo da furbi, siamo fregati. Ci penserò, disse Pilar. Ho tutta la giornata davanti per pensarci. Riposiamoci, disse Pilar a Robert Jordan. Siediti qui, Maria, e riposiamoci. Sarebbe meglio continuare, disse Robert Jordan, e riposarci poi quando saremo arrivati. Debbo assolutamente parlare con quest'uomo. Gli parlerai, disse la donna, non c'è fretta. Siediti qui, Maria. Vieni, disse Robert Jordan. Ci riposeremo quando saremo su. Io mi riposo adesso, disse la donna, e si sedé sulla sponda del ruscello. La ragazza le sedette accanto nell'erica. Il sole le faceva brillare i capelli. Solo Robert Jordan rimase in piedi a guardare l'alto prato montano attraversato dal torrente pieno di trote. Sotto i suoi piedi cresceva l'erica. Massi di pietra grigia spuntavano dalle felci gialle che sostituivano l'erica nella parte più bassa del prato, e più giù ancora si vedeva la linea scura dei pini. «Quanto c'è ancora fino all'accampamento di El Sordo?» domandò Robert Jordan. «Non molto», rispose la donna. «Si attraversa questo prato, si scende nella valle vicina e poi si va su per il bosco fino alla sorgente del ruscello. Siediti e non fare quel muso. Voglio parlare con El Sordo e non pensarci più. E io voglio lavarmi i piedi», disse la donna. Si tolse le scarpe dalla suola di corda e, sfilandosi una grossa calza di lana, immerse il piede destro nell'acqua. «Dio, com'è fredda! Però che bella giornata! E come sono contenta di non essere fra i pini! Non puoi immaginare come ci si possa stufare dei pini! Tu non sei ancora stufa dei pini, guappa?» «A me piacciono», disse la ragazza. «Che cosa puoi trovarci di bello?» Mi piace l'odore, mi piace sentire gli aghi sotto i piedi, mi piace il vento fra le cime e il fruscio quando i rami si toccano. A te, disse Pilar, piace tutto. Tu sei un regalo per qualsiasi uomo. Se solo sapessi cucinare un po' meglio. Ma un bosco di pini è tremendamente noioso, è un bosco di noia. Tu non hai ancora visto un bosco di faggi, o di querci, o di castagni. Ah, quelli sono boschi. Ogni albero lì è diverso dagli altri, e ha carattere e bellezza. Un bosco di pini è una noia pura. Tu che ne dici, inglese? Anche a me piacciono i pini. Però venga, disse Pilar, siete in due. Anche a me piacciono i pini, ma fra questi pini ci siamo già stati troppo, e poi ne ho abbastanza anche di monti. Nei monti ci sono solo due direzioni, all'insù e all'ingiù, e andando in giù si va solo verso la strada e la città dei fascisti. Non vai mai fino a Segovia? Che va con questa faccia? La mia faccia è conosciuta. Ti piacerebbe essere brutta, bellezza? Disse a Maria. Tu non sei brutta. Vamos, non sono brutta. Sono nata brutta e sono stata brutta tutta la mia vita. Tu, inglese, che non te ne intendi di donne, lo sai che cosa prova una donna brutta? Lo sai cosa significa essere brutta per tutta la vita e sentire dentro di sé che sei bella? È una cosa assai strana. Ficcò nell'acqua anche l'altro piede e lo ritirò subito fuori. Dio, com'è fredda! Guarda, disse, la cutrettola. E accennò a una palla grigia che saltellava su una pietra in mezzo all'acqua. «Quelle lì non servono a niente, non cantano e non sono buone da mangiare. Sanno solo agitare la coda. Dammi una sigaretta, inglese». Prese la sigaretta, si tolse dalla tasca della camicia l'acciarino e la pietra focaia e accese la sigaretta, osservando attentamente Maria e Robert Jordan. «La vita è molto curiosa», disse soffiando il fumo dal naso. «Io sarei stata un uomo in gamba, e invece sono una donna, è brutta tutta. Ma molti uomini mi hanno egualmente amata, io ne ho amati molti. È curioso, eh? Ascoltami, inglese, vedrai che è interessante. Guardami, brutta come sono, guardami bene, inglese. Tu non sei brutta? Che no, non mentirmi. Oppure...» E scoppiò nella sua risata più profonda. «Oppure ci stai cascando anche tu?» «No, no, dicevo solo per ridere. Guarda come sono brutta!» «Ma una donna brutta ha in sé un fuoco che acceca un uomo finché è innamorato. Con questa convinzione la donna brutta si acceca, e acceca anche lui. Poi un giorno, senza alcun motivo, lui ti vede brutta come sei veramente, e non è più cieco. E allora ti vedi tu stessa brutta come ti vede lui, e perdi insieme l'uomo... È quella convinzione.